English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Anche questa settimana, come abbiamo fatto la settimana scorsa, rimaniamo in tema cinematografico. Insomma, dopo la mostra del cinema di Venezia abbiamo qualche intervista da ascoltare insieme. Abbiamo parlato nella scorsa puntata con John Turturro. Invece questa settimana siamo in compagnia di Willem Dafoe, attore americano che però ha sposato una regista italiana. Insieme erano a Venezia per il film A Woman. Lei è Giada Colagrande. Questo film è una sorta di thriller psicologico tra New York e Otranto, un film effettivamente un po' controverso, non è piaciuto a tutti, ma noi intanto vogliamo sentire cosa ne dice l'attore protagonista Willem Dafoe, anche se lo abbiamo detto è un po' di parte perché marito della regista. Intanto ci ha raccontato com'è stata la sua esperienza sul set. Well, it was a very good experience. I mean, I love working with Giada and I think she made the film she wanted to make. We make it in a very simple way, but we make it specifically out of her passion to realize her cinema. So it's nice to be around people that still have that passion and aren't cynical and are really making things, and things that come from a personal place. Well, si comincia spesso così. Well, bene, com'è stata questa esperienza per Willem Dafoe? Quindi una bellissima esperienza. Gli americani dicono, in inglese si dice good experience, quindi una buona esperienza. Noi invece traduciamo con bella esperienza, perché così diciamo. Comunque insomma, una molto bella esperienza. E ci precisa una cosa che forse potevamo intuire: I love working with Giada, amo lavorare con Giada. E qui notiamo che in inglese noi appunto diciamo amo lavorare, cioè amo seguito dall'infinito, e invece in inglese si usa il gerundio, quindi come se noi in italiano dicessimo amo lavorando con Giada, però in inglese è così, quindi non sbagliamoci. Dice: lei ha fatto il film che voleva fare, non per prendere le distanze, ma insomma lui è molto più grande di lei, ha una certa esperienza hollywoodiana, non vuole prendersi il merito di questo film. Sì, qui ci spiega, è curioso come passa dal passato al presente. Quindi prima ci dice she made the film she wanted to make, quindi ha fatto esattamente il film che aveva in testa, che voleva fare, e poi dice we make it in a very simple way, quindi lo facciamo in un modo molto semplice, we make it specifically out of her passion, quindi l'abbiamo fatto, però appunto usa questo presente che credo gli sia quasi scappato, però secondo me dà l'idea proprio di come gli sia piaciuto, di come vorrebbe che ancora in quel momento il film fosse in the making, mentre ovviamente era già bello che è finito, tant'è che è stato presentato al Festival di Venezia. Giulia, sembriamo un po' noiose, ma davvero non è colpa nostra. Gli americani amano sempre sottolineare quanto è bello lavorare in equipe, quanto è bello lavorare con persone che condividano le stesse passioni, gli stessi interessi. Lo fa in un certo senso anche lui. Sì, è una teorizzazione che, insomma, loro, io credo che ci credano veramente. Noi appunto forse perché siamo cynical, come dice Willem Dafoe, ma invece lui dice it's nice to be around people who still have that passion, to be around something, someone vuol dire essere, lavorare con, diremmo noi, essere parte di, letteralmente essere attorno a qualcuno, quindi vicino a qualcuno che ha ancora quella passione, che non è cinico. E naturalmente qui c'è il famoso realize, che noi traduciamo ormai sciattamente in realizziamo, ma in realtà è pensare, no? Rendersi conto, letteralmente in italiano, quindi rendersi conto di che cos'è davvero il cinema fatto di passione. E che poi fanno cose molto, non solo personali, ci mettono proprio del loro, possiamo dire così? Sì, questa è un'espressione poetica, non so, a me sembra forse perché sono una romanticona, mi piace, no? Questo marito che parla del lavoro della moglie con tanto affetto e quindi descrive il modo di fare cinema di Giada come qualcosa, things that come from a personal place, quindi cose che arrivano da un posto personale, che potremmo dire da un posto intimo, da un'intimità, cioè da una cosa, da un punto molto profondo del nostro essere, quindi sono molto autentiche. Ma insomma, vogliamo capire, Willem Dafoe è stato solo attore in questo Woman oppure ci ha messo dell'altro? Look, I'm sure there are, but we don't recognize them and that wasn't the intention. I mean, Giada had a very specific idea of the film she wanted to make and I saw her develop that, but at the same time, once we arrive at the set, I'm an actor on the set serving a director and trying to find what we're doing and tell the story that we're doing, and be present to receive the story. It's an American story and an Italian story too. Of course, she's Italian, I'm American, and we go back and forth between the two countries, yeah. Eccolo qua, in un certo senso lo dice, look, guarda, ci sono cose delle quali magari abbiamo parlato insieme, che sono venuti fuori insieme, è un po' normale, marito e moglie sul set, magari chissà parlano anche del film a tavola, mi piace pensare, prima di andare a letto magari qualche idea se la scambiano. Effettivamente, nonostante lui dica che Giada ha un'idea very specific, molto precisa, qualcosa ci può essere. Sì, è divertente come appunto lui voglia convincerci quasi che ha fatto tutto da sola, che nonostante lui sia quello con più esperienza, Giada had a very specific idea and I saw her develop that. E quindi io l'ho guardata, l'ho osservata mentre sviluppava questa sua idea e io facevo soltanto la mia parte di attore. Vabbè, possiamo anche crederci, ma appunto ci piace pensare che invece qualche consiglio magari io lo abbia dato. Addirittura serving. Dice addirittura, insomma, come sempre, no? Il regista è il re sul set, sicuramente, e quindi I am an actor serving a director. Quindi io arrivo sul set e sono a sua disposizione. Quindi come sempre, come con qualsiasi regista. Naturalmente qua guardiamo appunto che regista in inglese è director e non, ovviamente non è direttore. Sappiamo che il direttore di un giornale invece è l'editor in chief e non il director. Quindi tutti false friends questi qui. Addirittura c'è una sorta di scambio, come se il regista fosse quello che racconta la storia e l'attore quello che la deve ricevere e far propria. È più o meno così la racconta Willem Dafoe. Sì, questa è un'espressione molto bella, che l'attore has to be present to receive the story. Present naturalmente non solo fisicamente, cioè deve essere presente a se stesso e al regista per recepire più che ricevere questa storia che il regista vuole raccontare e renderla il meglio possibile. Una storia, lo abbiamo detto, un po' italiana, un po' americana, perché è girata tra New York e Otranto. Era un po' spontaneo perché loro vanno sempre avanti e indietro. Appunto, lei è italianissima perché non è italo-americana, lei è proprio italiana, si sono conosciuti e poi invece lui è americano anche lui, quindi they go back and forth between the two countries. To go back and forth vuol dire proprio andare avanti e indietro, può essere usato anche in modo figurato, non so, quando si legge un libro, to go back and forth, magari un saggio e uno vuole riprendere delle cose, quindi go back and forth in the book. Però qui naturalmente invece è proprio un andare avanti e indietro attraversando gli oceani. Chissà se vedremo mai A Woman nei cinema italiani, perché c'è sempre il problema della distribuzione dei film che poi si vedono nei festival stranieri. Certo è che è un film di genere, perché è un thriller un po' psicologico, un po' linciano. Ebbene, la domanda che ci si pone spesso per quanto riguarda il cinema italiano, ci si chiede se i film di genere possono tornare a far vedere il cinema italiano all'estero. L'abbiamo chiesto anche a Dafoe, perché insomma ci può dare un suo parere da americano e magari anche da appassionato di cinema italiano. I can't speak generally because I'm no authority on Italian cinema, but all I know is Giada, one of the things that I like about her taste, her vision, is she's a little bit of a throwback. There's something classical about her approach to cinema and how it's shot and the pacing and how stories are told. I think because she's influenced by classic Italian cinema, and less, her tendencies are less kind of transgressive or cool or commercial than you have to be sometimes to make cinema these days. Proprio innamorato quest'uomo. Io non so, l'impressione che ho avuto è questa, perché qualsiasi cosa gli si chiedesse lui difendeva Giada. Non so se lo hai notato, Giulia, sì, sei d'accordo? Sì. Lui la difende sempre. Infatti gli ho chiesto, ma cosa ne pensi? Io non ho nessuna autorità particolare, non ho nessuna caratteristica particolare per giudicare il cinema italiano, però insomma, cosa ci dice però Giada? No, poi tra l'altro questo è molto è raro sentire un uomo di grande esperienza, una Hollywood star a tutti gli effetti come Willem Dafoe, che dice però io di questo preferisco non parlare perché non mi sento ferrato sul tema. Quindi lui proprio dice I am no authority on Italian movies, quindi non sono ferrato su questo tema, to be an authority on something. Però appunto che lo si ammetta, no? In un'epoca in cui tutti vogliono essere un po' dei tuttologi e dire la loro opinione. E poi appunto invece si passa a un argomento che lui dice di conoscere bene, che è her taste, her vision di Giada naturalmente, e poi la descrive, qui è molto carino come lo dice, she's a little of a throwback, to be a little of something, è un modo quasi che si usa spesso con i bambini, cioè come dire sei un po' stupidino, sei un po' birichino, sei un po' sportivino. Ecco, lei, to be a throwback, è qualcuno che è un po' che riutilizza il passato, un po' un nostalgico, ecco, potremmo dire così. Lei è un pochino una nostalgica, ma naturalmente usa questo a little of per non dare alcuna connotazione negativa a questo fatto di essere nostalgico, che poi per un americano che insomma che per carattere guardano sempre avanti e mai indietro potrebbe quasi sembrare un insulto. Tutto questo che si dimostra in alcune caratteristiche proprio anche di Giada Colagrande come regista, secondo il marito. Sì, proprio lui dice you can see anche how she was influenced by classical movies in how the movie is shot, quindi come il film viene filmato, to shoot, shot naturalmente è sparare, però viene usato anche per filmare, prima diceva to make a movie, ma si può anche dire to shoot a movie, the pacing, pace è il ritmo, il pacemaker lo sappiamo è il pacemaker, cioè quello che dà il ritmo, quello che fa il ritmo del cuore, lo rimette a posto e ci toglie il rischio di infarto, quindi il ritmo, come è filmato e how stories are told, e come le storie vengono raccontate. In tutto questo William vede nella sua Giada un'influenza dei film classici, non necessariamente italiani, dice classical movies in general. Non proprio popolarissimo al giorno d'oggi. Sì, insomma, William Dafoe sappiamo ha fatto un po' di tutto, no? Film di genere, no, ha fatto quella, mi ricordo un film terribile con Madonna, poi invece ha fatto To Live and Die in LA, che per esempio secondo me era bellissimo, ha fatto Platoon, insomma ha fatto un po' di tutto, quindi sa di che cosa parla quando dice che i film possono essere transgressive, cool o commercial, e you know you have to be sometimes to make cinemas these days, e ammette con candore, ma ha ragione, che spesso per fare cinema al giorno d'oggi bisogna essere commerciali. Si conclude qui la nostra puntata di oggi di English 24, io devo ringraziare Peter Bescape in regia e ricordarvi anche che il nostro mensile è sempre edicolo, il nostro English 24. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'appuntamento al prossimo English 24.